gente a piedi, in taxi dentro gli autobus, due occhi che ti guardano e poi via, come forti raffiche, perdersi nel traffico è un clacson dopo l'altro, chissà dove sei, come stai. Che dire, e allora proverò ad uscire stasera.